La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю я. Tra i due poeti russi, Vladimir Mayakovsky e Sergei Yesenin, c'era una grandissima rivalità. Mayakovsky era al colmo della sua fama, il futurismo impazzava, Vladimir Mayakovsky si sentiva il re della parola. Ed ecco, arriva questo a dargli fastidio. Dal distretto di Ryazan salta fuori questo giovane contadino che sapeva a menadito lo slavo ecclesiastico e questo rendeva maestose anche le sue poesie più scanzonate. Ed era un teppista predicatore, proprio come Mayakovsky. E aveva un vantaggio. Era più ignorante, più immediato e nuovo. Yesenin era biondo come una spiga, mentre Mayakovsky era nero come un corvo. E questo poeta biondo gracchiava sul suo raccolto. Mayakovsky si sentiva derubato, perché piaceva quel tanghero. E dire, diceva lui, che ha una sola nota e suona sempre quella. Lui è un flauto, ma io sono un'orchestra. Come si permette di scrivere, diceva Mayakovsky. Oggi con l'agile mano io potrei capovolgere il cosmo. Come una tormenta di neve si sparsero dalle mie spalle 8 ali. Troppo megalomane. Ma chi si crede d'essere Mayakovsky? Piano, eh? Ma poi Mayakovsky era rivale di Yesenin soprattutto per via delle bestie. Mayakovsky le considerava come cosa sua. Non sopportava che ispirassero anche l'altro. La sua passione per gli animali era tale che arrivando in un posto, Mayakovsky si occupava subito della popolazione gattesca e canina e poi ne dava conto alla sua amata Lily per lettera. Le lettere cominciavano: «Sono a Riga, ho conosciuto un cane così e così». In casa si chiamavano gatto e gatta e la corrispondenza di Mayakovsky è tutta costellata di autoritratti in veste canina. Lui si raffigura sempre come un cane. Scrive anche una poesia, «Come divenni cane». «Ma che mi sta succedendo?» «Tocco le labbra». Ma sotto il labbro c'è una zanna. Da sotto la giacca mi si è srotolato un codone che mi sventaglia dietro, enorme canino. Ma Boris Pasternak, che non perdeva occasione di fargli dispetto, di farli litigare, gli scrisse: «Nel vostro duello a chi è più bestia, Yesenin ha maggior diritto, perché viene dalla campagna. Tu, Vladimir, hai un bel titolare in una tua raccolta semplice come un muggito. Yesenin ha davvero imparato a parlare dalle mucche. Qui la grande differenza. Tu citi sempre cani e gatti, al massimo i cavalli, ciò che smaschera la tua origine borghese, mentre Yesenin capre, rospi, lepri». Ed era vero. Yesenin poteva vantare la stirpe contadina, era più parente. Mai si è stati così attenti al rango come nella Russia post-rivoluzionaria. Le ridicolaggini di chi fabbrica un albero genealogico per dimostrare a tutti i costi un titolo nobiliare fu niente rispetto agli alberi genealogici al contrario che si architettarono dopo il 1917. Si inventarono ascendenze proletarie come una volta si inventavano gli zii conti. E succedeva che gli avventurieri che prima si sarebbero fatti passare per ramponi di grandi famiglie ora impudentemente simulavano per la carriera o anche solo per la razione un'araldica pezzente. E intanto quello, cioè Yesenin, canterò, canterò, canterò. La capra non offenderò né la lepre. Sono l'ultimo poeta del villaggio. Возьму шинель, вещмешок и каску, защитную окрашенную краску. Ударю шаг по уличкам горбатым. Как просто стать солдатом, солдатом. Да molto fastidio a Mayakovsky anche l'ingenua vanità di Yesenin, nella quale specchia la propria, come quando Yesenin si vanta coi genitori contadini: vostro figlio ora cammina in cilindro e scarpe di vernice. Mayakovsky detestava quell'ubriacone di salmista che gli sposava tutte donne importanti una dopo l'altra, mentre lui non era riuscito a sposarne manco una qualunque e continuò a convivere tutta la vita con Lily Brick e con suo marito. Allora Yesenin prima sposa Zinaida Reich, bellissima, poi Sadora Duncan e adesso non era finito di arrivare che si era già preso una terza moglie, Sofia, nipote vera di Tolstoi. E poi Yesenin era appena un po' giovane di lui, 5 anni, quel poco che scoccia. Sergei Yesenin era stato allevato dal nonno, un vecchio credente, nel villaggio di Konstantinovo. Arrivò a Mosca e fondò l'immaginismo. «Mi fa legare i denti», diceva Volodia, «il loro pretenzioso e scoppiazzatissimo manifesto. La sola legge dell'arte è di rievocare la vita mediante l'immagine e il ritmo delle immagini». Legiferavano gli artisti allora. Anche quel villano, che intanto se ne andava in cilindro e frac alla Majakovskij, e posando a monello, eccentrico e incorreggibile, inseguiva lo scandalo, anche questo come il suo rivale. Una notte Yesenin e i suoi compari escono per Mosca e cambiano con vernice e pennelli i nomi delle vie importanti e ci scrivono i propri. Naturalmente li sbattono in prigione e si indignano, ciarlatani, buffoni. Majakovskij invece affettava lo sbadiglio. Uffa, ancora! Noi futuristi queste cose le facevamo già 10 anni fa. Poi Yesenin conobbe Isadora Duncan. Lui aveva 26 anni, lei 40. Non pensiamo ai 40 anni di oggi che sembrano delle ragazze. 40 anni allora era un'età per una donna considerata quasi da buttar via, ma non lei che era una grande ballerina. Isadora Duncan in Russia cercava la Grecia. Fu la prima a capire che il cuore dell'arte allora era lì, fra Pietroburgo e Mosca. Lei non parlava russo, Yesenin non parlava inglese. Isadora sapeva dire soltanto «Zalataya Galava», testa d'oro, e glielo disse subito appena lo vide. Da quel momento si parlarono contadinescamente solo a colpi di gomito in un linguaggio che intendevano solo loro. Lui la ama, è abbagliato dalla sua dama, e in lui batte anche un trepido cuore di marchetta che vuole essere portata all'estero. La prima volta che la vide saltò sul tavolo e ballò la russa, per lei la libertà, la ricchezza, l'America. Si capivano solo col corpo, la vodka e la musica. Vi pare poco? Si sposarono. Sergei poteva adesso ben consolare i suoi genitori. La grande ascesa era compiuta. Poveri, poveri contadini, siete certo imbruttiti e temete il Signore. Oh, poteste capire che vostro figlio è il miglior poeta di Russia. Gli sposi partirono per l'estero, in tournée. Berlino, Parigi. Ma Sergei Yesenin, questo piccolo provinciale entusiasta, e finalmente vita di grandi alberghi, e sbalordiva gli emigrati. Si aspettavano un mujik col petto nella cintura e invece si vedono arrivare questo damerino che ha gettato la camicia alla russa per rileccarsi all'ultima moda. La guardiana del faro. Continuiamo il racconto della storia del poeta russo Sergei Yesenin e della sua rivalità con l'altro poeta Vladimir Majakovskij. Nella sua ingenuità squisita, Yesenin parte con la Duncan per l'Europa, per l'America, aspettandosi un successo mondiale. E finalmente eccoli in America e arrivano in pieno proibizionismo. Lì sì che si beve. Sergei già beveva del suo, ma bevette più di tutti, perché era offeso. Gli americani badavano soltanto a lei. E lui? Che ci è venuto a fare allora? Lui, il primo poeta di Russia, era diventato il marito della Duncan. Yesenin se ne va in giro per New York con un compagno di bagordi, nero, dicono, suo amante. Non è la prima volta che la sua spregiudicata libertà butta giù anche quel muro. Già nel 1916 si era parlato con scandalo di una sua relazione. Ma in America ci fecero ancora più caso. Uomo e un uomo di colore. Questo non rese le autorità più benevole. Già sospettavano di lui e Isadora come agenti sovietici. L'America sana, e scriviamolo in corsivo, si rifiutava di andare ad applaudire, come dicevano i giornali, uno sporcaccione comunista, per quanto ispirati dall'amore e ormai dal bisogno, le sue danze furono un fiasco assoluto. Quanto Yesenin con grande meraviglia si accorse che nessuno era interessato alle declamazioni di un selvaggio che non sapeva una parola in nessuna lingua civile. Queste anche sono prese dai giornali del tempo. Isadora e Sergei tornarono a Parigi. Scornati, ormai si odiano, e della catastrofe ognuno incolpa l'altro. Sergei si era intanto intossicato di pessime droghe americane e di una nostalgia dolente per il suo paese. Lì sì che lo stavano a sentire. Allora tentò la poesia della vita, tentò la rappresentazione estrema. Si diede a girare nudo per l'albergo e picchiava severamente Isadora alla contadina. Lo misero in manicomio. Fu rispedito in Russia nel 1923, con cravatte, abiti, scarpe, una cipria francese per coprire i segni degli stravizi e ricostruire il suo fresco viso di angelo bucolico. Il clima era cambiato, c'era meno pazienza verso i bettolieri. A Mosca si sentì perso. Tornò al suo paesello, Konstantinovo, rivide il nonno, spauracchio di una vecchiaia che gli sembrava prossima. Il nonno gli chiede: «Sei comunista?» «No, le tue sorelle invece si sono fatte comsomolche. Una tale porcheria, da impiccarsi. Ieri hanno tolto l'icone dal palchetto». E in chiesa il commissario ha levato la croce. Poi lui parla con la sorella. «Su, parla, sorella!» Ed ecco che mi parla. Come una Bibbia, aprendo il panciuto capitale di Marx, di Engels, libri che certo mai mi son sognato di leggere. «Che ci sta a fare?» Allora un poeta bohemien in quella Russia. Capisce che ha sbagliato a tornare. Come avrebbe sbagliato a rimanere, d'altronde. Spaesato come all'estero, ma senza più un posto dove tornare. Che paese! Ah, questa era bella traduzione in rima di Renato Poggioli. Che paese! Nei versi fu follia dirsi amico del popolo che è mio, che ormai non serve più la poesia, e forse più non servo nemmeno io. Al ritorno, però, Yesenin conobbe Sofia Andreevna, la nipote di Tolstoi. Si sposarono. Lei adorava quel vizzo ragazzo malato, ma presto ricominciò la deboscia. Yesenin aveva fatto voto di mai più vivere sobrio. Malignamente, come una prima donna gelosa, Majakovskij aspettava che il rivale pagasse il fio del suo anarchismo, lui che era molto più ortodosso. Specie da quando Yesenin aveva scritto: «Darò tutta l'anima all'ottobre e al maggio, soltanto non darò la cara lira». Come a sgridare lui, Majakovskij, che invece aveva dato anche quella. E certe sue poesie di propaganda sono orribili e non si mandano proprio giù. Забуду все домашние заботы, не надо ни зарплаты, ни работы. Иду себе играю автоматом, как просто быть солдатом, солдатом. Иду себе играю автоматом, как просто быть солдатом, солдатом. Anche Majakovskij era stato in America, ma in un altro momento, quando lui torna, era già tornato Yesenin in Russia. Quindi lui scende dal treno, non sapeva nemmeno se sarebbe stato riconosciuto. Invece, alla stazione di Mosca, ha la sorpresa di trovare una grandissima folla urlante. Non fece in tempo a mettere i piedi a terra. All'istante quattro scalmanati lo sollevarono, portandolo in trionfo, mentre la moltitudine gridava il suo nome. Solo allora vide i cartelli. «Bentornato Majakovskij, bentornato al più grande poeta sovietico». Si era sparsa la voce del suo arrivo ed erano corsi al treno a migliaia. Issarono Majakovskij su una pedana improvvisata e lui prese a declamare il ponte di Brooklyn. La sua voce era uno spettacolo ancora più grande della sua poesia. Il pubblico respirava con lui. E pure allora Yesenin venne a guastargli tutto. D'un tratto la gente si distrae. Non lo ascoltano più. Un mormorio. Si ripetono l'un l'altro il nome di Yesenin. Esclamazioni. Majakovskij tace, offeso, di colpo smette di declamare. Uffa, ma che avrà combinato ancora quel suonatore di balalaica? Ed ecco la notizia. Si è ammazzato. Chi? Il poeta Yesenin. Impiccato. All'Hotel Angleterre. Aveva 30 anni. Morto. Il primo pensiero di Majakovskij fu d'invidia. Yesenin si è suicidato. Prima di me. Mi ha rubato la scena. Sono in ritardo. Благодать, благодать, все обиды до времени прячем. Ничего, что удачи пока не видать, зря не плачем. Quando era ancora vivo, Majakovskij lo aveva insultato a piacere, ma continuerà anche dopo la sua morte. Scriverà: «Vieni, osserva, impiccati. Ci sono ancora cattive vivande, il verso di Yesenin e la vodka». Ma subito dopo il suicidio, per una volta sola, si pose con lui alla pari. Da poeta a poeta, da bestemmiatore a bestemmiatore. E gli dedica questa poesia che contiene i famosi versi: «Meglio morire di vodka che di noia». Tutti credono di sapere come morì Yesenin. Questo l'ho preso dal libro di Renato Poggioli sulla letteratura russa, scritto in tempi in cui ancora non erano stati aperti gli archivi del Cremlino. E questa è la versione ufficiale che si trova ancora adesso in tutte le storie della letteratura russa. Ripreso da Cessi di follia, nell'inverno del 1925, solo nella sua camera, Yesenin maturò il pensiero del suicidio. Volle scrivere i suoi ultimi versi. Nella stanza mancava l'inchiostro ed egli si incise il braccio con un coltello, scrivendo poi col sangue. Ma era venuta l'alba e si abbandonò alla dolcezza di vedere la luce per un altro giorno, rimandando la notte. Consegnò a Ehrlich i versi appena scritti. Ehrlich aveva fretta, li mise in tasca senza leggerli e scappò via. Jesenin fu trovato impiccato a una cinghia di valigia. Solo allora il povero Henrik si ricordò del foglietto rimasto nella sua tasca. Recava la poesia scritta col sangue, che si chiudeva con due versi destinati a diventare celebri. Morire non è nuovo sotto il sole, ma più nuovo non è nemmeno vivere. Hanno sfranto le palle a generazioni di studenti con questa versione romantica e penosa. La sua fine fece scuola, solo che era falsa. Jesenin fu assassinato. Для чего мастер Гриша придет рядом сядет? Две больших, две надежных руки у него все наладит. Con l'apertura degli archivi del Cremlino si scoprì che quel suicidio non c'era mai stato. Lo stesso anno della sua morte, Jesenin aveva scritto un terribile pamphlet, Il paese dei vigliacchi, un atto d'accusa contro gli abusi del Comitato Centrale, dove faceva i nomi dei torturatori e delle spie. Troppi, troppi nomi per un contadinello senza appoggi. Jesenin si scagliava con mistica temerità contro i capi storici del grande evento, colpendo in special modo Trotsky, che lo lesse e organizzò il delitto. Il colto Trotsky, la vittima di Stalin, anche lui mica scherzava. Quando in Messico fu trucidato da un sicario mandato da Stalin, la sua morte in fondo fu più misericordiosa di quella cui aveva condannato Jesenin. Infatti in questo finto suicidio c'è la sua mano raffinata nella perfetta regia dell'Hotel Angleterre. L'esecuzione fu affidata a un gruppo di poeti di Odessa, fedeli a Trotsky e rivali del poeta, che lo torturarono e lo derisero fino all'alba. Jesenin morì dopo sevizie che non ho piacere si sappiano. Allora, solo allora, lo sistemarono come un impiccato. E la poesia scritta col sangue, l'amico che se la picca in tasca senza leggerla, favole, compiaciute invenzioni e testimoni sono tutti complici. Fu facile per i suoi assassini. L'elogio del suicidio, che è così frequente nelle sue poesie, diventò una prova. Scrisse, per esempio, «Dolce morir sul campo di battaglia, al fischio delle lance e delle frecce, ma è ancor più tenero e più saggio cenare, e letta una storia di Apuleio, in un bagno bollente profumato, senza nessun addio, aprirsi le vene». Questo mitico suicidio fu il trionfo dei vigliacchi, come li chiamava lui nel suo pamphlet. Nel suo compianto funebre, Majakovskij crede di rispondere a Jesenin, ma sta rispondendo ai suoi sicari. 5 anni dopo, anche lui si ucciderà, e tutti diranno, come Jesenin. Ma non è vero, Majakovskij ha copiato un falso. È dedicata a quelli che mi hanno scritto e cui non ho risposto, ma perché soffrono per amore, perché ad un tratto si vedono una porta sbattuta in faccia e spesso non si sa neanche perché, perché sarebbe semplice. Sono dicesse, guarda, le cose stanno così e così. Invece no. Ed ecco questa storia, tratta dalla poesia Il flauto di vertebre di Vladimir Majakovskij. Oggi, appena entrato nella tua casa, mi sono sentito a disagio. Tu nascondevi qualcosa nell'abito di seta e si fondeva nell'aria un profumo d'incenso. Sei felice? Hai risposto un freddo molto. Ascolta, tanto non riesci a nascondere il cadavere. Scagliami in viso la parola terribile. Ogni tuo muscolo urla lo stesso. È morto. È morto. È morto. Ovviamente parla dell'amore. Non mentire. Lo so, ormai è consumato l'amore. Da tanti segni indovino la noia. Lo so, per una donna sempre si paga. Non fa niente, se non ti vestirò con l'abito di Parigi ma solo col fumo della sigaretta. Hanno sbattuto la porta, è entrato lui, fresco, della gaiezza delle strade. Io con un gemito mi sono spezzato in due. Gli ho gridato, va bene, me ne vado. Va bene, rimarrà tua. Oh, questa notte, al mio pianto e al mio riso, il muso della stanza si è storto in una smorfia d'orrore. A mio paragone, re Alberto, che si è arreso al nemico con tutte le sue fortezze, è un festeggiato ricolmo di doni. La guardiana del faro. Ho aperto quello specchio e c'ero dentro io. Femmina perfetta, assomigliante a Dio. Potente creazione, preziosa superstar, acrobata del vizio, trullallera. Un giorno di 12-13 anni fa ero a Bologna, era una sfilata di scrittrici, una cosa molto divertente organizzata da Francesco Gallo. Noi scrittrici indossavamo un abito e leggevamo le nostre pagine. Dal mio camerino, mentre mi cambio, vedo allo specchio questo cigno che si provava un abito. Era bianca, sembrava un extraterrestre. Anzi no, una magnolia. Io avevo un caschetto alla Louise Brooks. Era Isabella Santa Croce. Siamo uscite dal camerino come presentazione, siamo scoppiate a ridere. E ci siamo volute bene subito. E non ci siamo lasciate più. Ora in tutte le amicizie ci sono delle crisi, delle fratture, dei tormenti. Ma io da Isabella ho avuto soltanto gioie. Perché anche quando ti chiede di portare un suo dolore insieme a lei, lo fa in un modo tale che si trasforma in una gioia. Mica che si ride, ma il cuore è in pace. Isabella per me è la pura infanzia, prima di 5 anni, prima di imparare a scrivere, quando l'anarchia dell'immaginazione e della parola è ancora intatta. Con lei che è così tormentata, si ride veramente, quando si ride. Ma lei è l'infanzia con tutte le sue crudeltà, i suoi terrori, le fiabe spaventose come nel titolo di quel libro immortale di Michele Mari, Tu, sanguinosa infanzia. Poi la perenne infanzia di Isabella e la sua arte. Lei è un'artista assoluta. Nel vestire, nel telefonare, nella sua sorprendente opera letteraria. Cominciò con 3 romanzi, Lumina, Destroy, Fluo, che si somigliavano nello stile e anche nel racconto. Questi poemi senza macchia, i critici entusiasti si sentivano rassicurati. Questa abbiamo capito com'è. La mettono in una casellina, la definiscono letteratura allucinogena, visionaria, giovane, questa parola odiosa, giovane. E Isabella però non ha nessun rispetto per la pigrizia altrui e gli è scappata di mano a quelli, anche a se stessa. E dopo è partita per un'esperienza senza fine. Ogni libro una scoperta di linguaggi, di temi, e poi da Revolver in poi esplode l'umorismo. Isabella è molte cose, Isabella scrittrice, ora è alessandrina, ora è brutale, ora è barocca. Difficile starle dietro. Isabella Santa Croce se ne frega di tutti e sta riccione come altri stanno sul Monte Athos. Ogni tanto scende e va a scrivere le canzoni con Gianna Nannini. E poi è cavalleresca nell'amicizia, uomini, donne, bestie. Io l'ho sempre vista agire con eleganza. È un vero hidalgo, Isabella Santa Croce. Ora, pure io veramente sono cavalleresca con le amiche, solo che io lo so. Io ne vado orgogliosa e sotto sotto me ne vanto con me stessa. Mi piaccio nel ruolo, mi ci diverto. Segno che c'è anche un volgare mascalzone dentro di me al quale ogni volta devo dire hai visto, ho vinto io. No, lei invece no. Isabella Santa Croce è nata perfettamente leale. Lei è nata elegante. Una volta arriva con delle scarpe coi tacchi altissimi, non so, 25 centimetri, tutte piene di catene, lucchetti. Io dico, ma come fai a camminarci? E lei, ma queste mica sono per camminare, sono scarpe da letto. Lei ha dei passettini inquietanti, è una gallinella, una colombina, una natrella, una belva. Il suo ultimo libro, Lulu de la Croix, che fa parte di una trilogia, Inferno, Purgatorio e Paradiso, è stata un'esperienza sconvolgente che mi ha fatto perdere il centro di gravità dello stile. Perché il suo era così ipnotico che per una settimana ho scritto come lei e ho dovuto buttare tutto. Ho lasciato solo una frase, come ricordo di quell'esercizio spiritico. Ma perché quando è uscito questo libro soltanto Massimiliano Parente ne ha scritto come di un capolavoro? Ma che abbia ragione il critico Onorino Balzacchi, che nella famosa Gazzetta di Pietralunga ha scritto «Isabella Santa Croce ha troppo un bel culo perché si riconosca che ha scritto un capolavoro». Vorrei chiedere alla Capitaneria di Porto di chiamare Isabella Santa Croce. Ho scelto di esibire le mie diversità come Pippi calze lunghe, leggendaria e unica, autentica emozione, la mia vanità, lucida da nuovo, forza esplorerà. Mi hanno detto che non va, mi hanno detto non si fa, mi hanno detto smettila con la tua anarchica personalità. Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, la scrittrice Isabella Santa Croce è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Oh! Isabella, sei tu? Ah, sì, sono io. Ciao, Barbara. Sai che ho letto un articolo di Camillo Langone, il quale dice Isabella Santa Croce è l'ultima diva della letteratura italiana. Lo sai che mi inquieta che una rivoluzionaria come te venga recensita soltanto dai giornali più reazionari? Mi fa molta impressione. Comunque, senti, leggi quello che vuoi. Va bene, allora leggerò Requiem. Cos'è Requiem? È qualcosa che ho scritto e che è presente ora in questa autobiografia, nella prima parte. L'autobiografia che tu stai vendendo all'asta? Sì, che sto vendendo all'asta e c'è Requiem. E ora leggerò l'inizio. Isabella Santa Croce legge Requiem. Un cuore artificiale io vorrei. Nessun suono. Non questo pianoforte pieno di violini. Non questo slancio che nasconde sotto ali così immense. Non quei sogni. Nessun suono. Meccanismo, meccanico perfetto, spietato ed infallibile. Robottino di ceramica comando. Non provare nulla. Ritrovarsi la distanza necessaria perché neppure mi sfiori il sentimento. L'amore straziato dal lirismo. Nessun suono. Nessun volo verso l'alto alla ricerca di bellezza, non dolcezza, non dolore, non speranza, non la rabbia, non la delicata voglia delle braccia che ti tengono per sempre. Nessun suono. Non cadere per l'affanno di trovare della luce laggiù in fondo, non questo slancio che nasconde sotto ali così immense, non quei sogni, nessun suono. Un cuore artificiale io vorrei, ferro duro sotto il petto, guerriera che non soffre nella lotta, questa tregua, questa anestesia grandissima, questa corsa in mezzo al sangue, senza lacrime, sempre altrove, sempre forte, invulnerabile, magnifica. Dai, prova a ferirmi, io non sento, non ci sono, sempre altrove, sempre forte, invulnerabile, magnifica. Dai, prova a ferirmi, colpisci con potenza, fammi fuori, urlami qualcosa di terribile, sbranami, dai, sbranami, io non sento, non ci sono, sempre altrove, sempre forte, invulnerabile, magnifica. Nella bottiglia in arrivo per la guardiana del faro. Ho 25 anni e sono vergine. Ti mando una foto per dimostrarti che non mi sono certo mancate le occasioni. Sono assediata dagli uomini, ma non ho mai fatto sesso perché non mi sento pronta, ben decisa a farlo solo quando capiterà quello giusto. Le amiche mi criticano, non capiscono la mia castità, ma credo di aver fatto la scelta migliore per me. Elide. Anch'io credo. Perché sei così innamorata di te da esserne gelosa, guai a chi ti tocca. È la seconda volta che mi scrivi e mi mandi la tua foto scollatissima, con le tette puntate sull'interlocutore come razzi. Va di moda, bellissime e vergini, bombe del sesso e intatte. È un vecchio trucco per aumentare le quotazioni erotiche. Io mi ricordo qualche anno fa la modella Adriana Lima che finì sul giornale di Mezzo Mondo. Mondo occidentale, in queste cose il più stupido. E tu ti dovrei accontentare di questa rispostina alla radio. La tua lettera è una fotocopia, non mi hai mandato neanche un originale. Segno che hai inondato le redazioni. Cioè tu vuoi proprio tutti a sapere tutti, vuoi far sapere a tutti che sei ancora nuova. Quando tu o la Adriana Lima che ho citato o altre proclamate la vostra castità, è un po' come quando sul cornicione l'esibizionista sale su, pa, e spalanca l'impermeabile. È una mossa identica e opposta. Io credo che la castità debba essere casta. E chi fa questa scelta col corpo la dovrebbe fare anche con la parola. Perché tu in questo modo vuoi che obbligare tutti a pensare alla tua verginità, cioè ad una tua sessualità che dovrebbe essere intima e misteriosa se è casta. La castità è una condizione affascinante, purché sia vera e si nutra di mistero. Ma tu suoni la gran cassa. Questa si chiama verginità molesta. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, visto che raccoglie tutte le sfighe del mondo, le regalo anche la mia. Nato nel lontano 1964, orfano fino a 3 anni, adottato nel 1997 da una coppia in crisi, che speravano di unirsi dopo aver perso la figlia nata e subito morta. Amato ben poco. Avevano già il dolore della guerra che li aveva svuotati. Violentato fra gli 8-9 anni da un uomo. Riordinato tutto con un lavoro di gran dolore e solitudine. Una botta di culo con un ragazzo che dopo una quindicina di anni di amore si è trasformato in una grande amicizia. E questo è stato forse un senso del mio vivere. Ora sono quasi un cinquantenne, felice e molto cinico. Anch'io ovviamente le chiedo un consiglio, ma avrebbe senso, dopo aver capito che forse sono eterosessuale, avvicinarsi al mondo femminile con simpatia? Franco, da Cuneo. Beh, l'inizio è delizioso. Anche la concisione, eh? Un argomento per riga. Tutta una vita su un foglio in 10 righe. Eppure così espressiva. Però guarda, Franco, che con questa lettera io non mi accollo la sua sfiga, ma la sua fortuna. Perché uno che ha passato tutte queste traversie fra Moll Flanders e Oliver Twist ed è ancora così spiritoso, beh, guardi, Gastone Paperone le fa un baffo. Però la prego, non si restringa. Non ceda agli schemi sociali, ai ricatti della psicanalisi, del costume, di tutte queste balle che ci fanno così disgraziati e rendono difficile una scelta. Il tempo rozzo nel quale viviamo vuole per forza che ci schieriamo, o bianco o nero. Va matto per l'appartenenza. Ci vuole schedare tutti. Non si autoschedi, Franco. Non diventi il poliziotto di se stesso. Essere uomo o etero non è una bandiera. Molti per natura sono dei viaggiatori del sesso e anche della passione. Io le dirò che la mia identità sessuale io non l'ho mai capita e francamente me ne infischio. Io mi innamoro anche di un coccodrillo se mi fa ridere. Da giovane a una persona che mi tartassava con delle domande per me insensate ho risposto: io mi innamoro sempre degli occhi, il resto viene dopo. Ti attira una donna in particolare? Essere omosessuali non è un marchio, non è un obbligo per sempre, è una delle possibili forme della felicità e dell'infelicità, come sempre in amore. Si faccia meno domande e si dia più risposte. La cosa più sensata è stare con chi amiamo in quel momento. Poi, donna, uomo, dio, bestia, minotauro. Se ci stai bene insieme, va bene. Cito un'altra volta Il catino di zinco di Margaret Mazzantini, dove dice questa frase meravigliosa: la vita è un pensiero che non bisognerebbe avere. La guardiana del faro. Messaggio nella bottiglia in arrivo per la guardiana del faro. Gentile signora, carissima amica, non finirò mai di ringraziare Gianluca Nicoletti che nel 2005 mi fece scoprire ed apprezzare Radio 24. Un amico di amici mi viene presentato. Un quarantenne molto affascinante, scapolo, benestante, inquieto. Quello da evitare per chi come me sogna una famiglia. Capisco il rischio, ma usciamo una volta, e poi tre, e poi sempre. Ci divertiamo. Interessi comuni, passeggiate, libri, musica, cene. Svicolo i viaggi solo per pudore di affrontare l'imbarazzo di un'intimità casuale che voglio sia invece il coronamento di un idillio perfetto. Il quadro è così bello che fatico a dormire la notte. Lui sembra adorarmi, e io mi innamoro del suo sguardo adorante e mi convinco che è amore. Il mio entusiasmo è alle stelle e dopo mesi di complice frequentazione pregustavo le dolcezze dell'alcova. Premetto che non ho mai preso l'iniziativa con un uomo. Attendevo quindi come la volpe che l'uva fosse matura, ma il tempo scorre e non succede niente. Impaziente, cedo al mio desiderio, voglio il mio trofeo e gli dichiaro i miei sentimenti. Lui mi abbaglia con una reazione che nemmeno lontanamente avrei previsto. Scandalizzato, infierisce su di me le mie stupide fantasie. Colpevole e infame. Ho rotto il cerchio perfetto. L'amicizia, quel nobile sentimento superiore all'amore, infangata per delle facezie, mi fa vergognare di quello che provo. Quando i nostri corpi erano vicini, io sentivo un magnetismo che mi faceva credere che a letto, questione di tempo, sarebbero state scintille. E invece sento dire che io fisicamente non lo attraggo e che lui non si sogna di avere un rapporto intimo con me. Io sono consapevole del mio fascino. Non sarà lui a far tremare le mie fondamenta. Incasso nobilmente l'affronto, ma comincio ad odiarlo. Dico che non intendo continuare con questa amicizia. E lui, dicendomi che devo saper guardare altrove, mi fa cambiare idea. Ma io accetto solo nella speranza di potermi vendicare. Il mio aguzzino adesso mi tormenta, raccontandomi le sue notti appassionanti con donne sconosciute, descrivendomi particolari osceni, e si comporta come un fratello volgare e sfrontato. All'ennesima prova della sua recita ignobile che ha per oggetto una prostituta, indignata, prendo le distanze, definitivamente. Il mio desiderio è totalmente spento e io sono offesa a morte. Torna ad aggredirmi, ma dopo poco, come se niente fosse, mi ricerca con scuse infantili. Io lo evito, facendogli notare che i tempi sono ormai cambiati. Lui non capisce né rispetta la mia decisione. Ma che cosa vuole da me? È forse pazzo? Con affetto, un'ascoltatrice fedele. No, non è un matto, è un maniaco. È maniaco del suo gioco, al quale vuole tornare. Lui vuole tornare alla formula ambigua e sensuale di prima, quando ogni emozione fra voi era amplificata dal non detto, da questo gioco ardente perché non svelato. Ti ha umiliata per punirti perché gli hai rotto il giocattolo e ti ha vista come una guastatrice e un poco anche come una traditrice. Ai suoi occhi sei imperdonabile e ti ha condannata alla tortura. Ti racconta questa storia immaginaria con dettagli per compiere uno stupro verbale, per tornare di nuovo all'impossibilità, ma avvirato nel sadismo. Questi racconti hanno un solo scopo: ti vuole turbare, vuole essere desiderato alla pazzia per lasciarti poi a bocca asciutta. È un dispetto infantile, ma con una malizia da adulto. E poi vuol farti credere che lui, con tutte, meno che con te. Io ho sempre detto, l'immaturità sessuale è un diritto, ma non quando viene usata contro l'altro. E la differenza da prima e adesso è sostanzialmente questa. Prima giocavate insieme, adesso gioca contro di te, ti vuole dominare. Lui ne prova di sicuro una grande soddisfazione, ed è per questo che non ti lascia andare. E che fai? Gli scappa la vittima. Quest'uomo è un onanista, rigoroso. Oh, io non ho niente contro, penso che l'onanismo, che viene così ridicolizzato, ha una dignità sessuale come tutti gli altri atti del sesso. Però, appunto, non contro il prossimo. E lui è di quelli rigorosi che non condividono i loro sogni erotici. Ed è un onanista di quelli cattivi. Non si accontenta della sua estasi solitaria, ma ti butta in faccia i suoi fantasmi. Non è vero che non c'è sesso nella vostra storia. Ce n'è fin troppo, ma non come lo vorresti tu. Tu sei semplice? Lui no, anche se poi c'è una cosa che ripete sempre Leonardo Sciascia nel suo romanzo Candido, perché tutte le cose sono semplici. E in fondo è vero, questo è il suo modo contorto di fare l'amore con te, nella sopraffazione e nel tormento. Se lui però ti avesse spiegato bene che cosa gli piaceva, ecco, magari vi sareste messi d'accordo e magari sarebbe piaciuto anche a te. Ecco, devo fare una piccola aggiunta. Quando lui si è indignato, ti ha fatto questa scenata perché lo amavi, non è certo perché hai calpestato il valore sacro dell'amicizia. Queste sono balle. Però, certo, fosse stato vero, sarebbe un bel contrappasso. Ci lagniamo sempre, e giustamente, che ci considerano solo per le nostre qualità fisiche. Oh, e per una volta che si incontra uno che vuole solo l'amicizia. Sto qui in galera, ho fatto un patto col tuo cuore, chi si lascia muore, ma non è mai detto, una parola poi uno schiaffo, siamo questo adesso, un inferno rosso, giri attorno come un cane che ha soltanto fame e poi mi salti addosso. Che per disegnare una donna scrupolosamente fedele la si chiami Penelope. Io invece penso spesso a quel cornuto di Ulisse. Sappiamo tutti che Penelope di giorno tesseva la tela e la guastava di notte, ma nessuno sa cosa tesseva. Ulisse l'ha lasciata da molti anni, nel fiore della gioventù, le ha preferito l'avventura e lei tesse. Lui se la spassa con la guerra, i mostri, i drogati, cioè i lotofagi, le tempeste, Circe, Nausica, le sirene, e lei tesse, anche se attorniata da una banda di giovanotti, tutti vogliosi di letto e di regno. Penelope non è una donna, è una moglie. Come era sicuro di lei, Ulisse? Era versato nell'inganno, però ignorava tutto dell'amore. Da qui la sua certezza bovina. Né fu ammaestrato dall'esempio di Agamennone, che fu ucciso a pugnalate dall'amante della moglie. Ma lui no, lui non può succedere. Lui è astuto, lui è Ulisse. A lui nulla si fa. Ma Penelope gliel'ha fatta. Le astuzie di Ulisse andavano bene per quel ciclope della testa grossa. Per i soldati andavano bene. Ma non per lei, la regina abbandonata. Ulisse, al suo ritorno, la prese come una sposa che nell'assenza avesse venerato lui solo. Non si accorse che era andata con tutti. Non che si fosse banalmente concessa ai suoi pretendenti, no, questo mai. Ma insomma, cosa tesseva Penelope? Penelope tesseva i suoi tradimenti. La tela era il suo internet. Ogni giorno raffigurava coi fili un incontro proibito. Il marito in giro per ninfe e lei, tutti coi maschi che le ronzano attorno, belli, sudati, pronti. Sembrava di ghiaccio, ma poi al telaio disegnava la lussuria. I proci passarono uno a uno nella sua tela. Una notte con Antino, una con Eurimaco, ma non c'erano confini. Si diede anche ad Agamennone e ad Achille, scattante, ardente. Lo tesseva per goderlo. Una volta, perfino, si giacquero in tre con Patroclo, l'amante di Achille. Se li fece tutti, i greci, ma anche qualche troiano. Enea, per esempio. Probo, ma forte, saporoso. Perfino Paride portò sulla sua tela, rendendolo infedele ad Elena. Non c'era limite all'abilità delle sue mani. Ma ce ne furono ben altri, anche qualche dio. Lo ripeto, quella tela era il suo internet. Per questo poi la guastava, per cancellare le prove. Un solo sembiante non tesse mai, quello di Ulisse. L'annoiava quel furbo. Mai con lui, né prima né dopo, provò i piaceri della tela. E quando, dopo il suo leggendario ritorno, il re di Itaca dorme, ogni tanto di nascosto Penelope torna a tessere e chiama a sé, se vuole, perfino amore in persona. Capitaneria di porto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. A cura di Gloria Guerrera. Расплата за ошибки, когда под ребра бьют, работа есть работа.